9 in punto. Ha meno di 10 anni. Meno di 10? Sì. Lei sa? Cosa? Quello che deve fare. Farà tutto quello che vuoi, ma devi spiegarglielo. Lei farà tutto, ma devi spiegarglielo però. Sicuro? Tranquillo. Sì? Non lo capisco. Farà tutto quello che vuoi. È vergine? Quasi. Sì o no? L'ha fatto una volta sola. Una sola? Solo una volta. Solo una volta. E quanto costa? $500. Quanto? $500. $500? Sì. La madre ha detto che per meno non poteva, che se no non ce la dava. Lei è andata con un turista la prima volta per gli stessi soldi, ma un'ora. Solo per un'ora. Non per una notte intera come con te. Solo per un'ora. E quindi è un buon prezzo, perché con te sta per una notte intera. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno da Simone Spezia. A introdurre questa puntata abbiamo voluto un brano di una splendida e dolorosissima inchiesta. Vi sembrava un film, è vero? È una splendida e dolorosissima inchiesta realizzata in Cambogia dal collega di Rai 3 Silvestro Montanaro, che con una telecamera nascosta, andatevela a cercare sul sito della Rai questa inchiesta, perché vale la pena vederla, con una telecamera nascosta ha fatto vedere come si potesse comprare una notte con una bambina. Parliamo di turismo sessuale perché ci sono dei dati diffusi venerdì da ECPAT Italia. ECPAT è un network internazionale di lotta contro la tratta dei minori, e i dati appunto sono stati diffusi da ECPAT Italia, dai quali risulta che siamo gli italiani, sono tra i maggiori turisti sessuali al mondo, ma appunto non turisti sessuali verso luoghi dove la prostituzione è legale o tollerata, e quindi non verso una prostituzione normale, ma turisti sessuali per andare a cercare minorenni, insieme a americani, tedeschi e francesi. 80.000 persone ogni anno a quanto pare. Buongiorno Marco Scarpati, presidente di ECPAT Italia. Buongiorno. Allora, come avete tirato fuori queste cifre innanzitutto, e se ci spiega brevemente come funziona? Cioè, ci sono anche, se ho capito bene, esistono anche delle organizzazioni che di fatto si dedicano a questo, che consentono di organizzare questo tipo di viaggi. I dati, noi come ECPAT Italia abbiamo un nostro ufficio studi che ogni due anni cerca di rinnovare ricerche in materia per riuscire ad avere una più precisa considerazione di quello che è il problema, perché non si possono combattere fenomeni spaventosi se non si conoscono, e quando abbiamo iniziato a lavorare in questo settore i dati reali, la reale consistenza del problema e chi erano i clienti dei bambini non li sapevamo, non sapevamo quasi nulla se non che questa cosa ci faceva schifo, ci dava fastidio. Allora alcuni anni fa abbiamo cominciato a studiare e ogni due anni rinnoviamo questi studi e queste ricerche fatte con l'aiuto di sociologi, con l'aiuto di economisti, con l'aiuto di persone che ci possono far comprendere meglio che cosa quei numeri vogliono poi dire nella vita reale. Come ci sono organizzazioni come ECPAT che combattono questo fenomeno, ci sono persone che si occupano di questo fenomeno dall'altra parte, cioè commercianti che vogliono guadagnare e tanti soldi cercando di sfruttare i bambini. Questi commercianti sono criminali, appartengono a gruppi della criminalità organizzata che sfruttano la prostituzione e non fanno grosse differenze tra la prostituzione minorile e quella con persone più adulte. Verremo poi a questo. Io intanto saluto, anche perché poi tra poco ci deve salutare, che deve andare a votare, Alessandra Mussolini, senatrice del PDL. Nella precedente legislatura è stata presidente della Commissione Infanzia, dove, devo dire la verità, insomma, ha fatto un ottimo lavoro. Buongiorno Mussolini. Buongiorno a voi, e saluto anche il presidente dell'ECPAT, un'organizzazione con la quale noi abbiamo lavorato molto nella Commissione Infanzia. Io, tra le altre cose, appena uscita questa indagine agghiacciante, ho presentato una mozione al Senato che mi auguro sia discussa al più presto, interrogando il ministro degli affari esteri, dell'interno, giustizia e anche pari opportunità, perché ha la delega alla pedofilia e prostituzione minorile. Purtroppo ancora non è stata data una delega per la famiglia che si occupa dei minori, questo è grave perché c'è una vera e propria emergenza. Tra l'altro si fa riferimento anche nella indagine ECPAT dei mondiali di calcio del Brasile 2014, perché come è successo in Sudafrica e in Ucraina c'è già di base c'è uno sfruttamento dei minori, ma quando ci sono questi eventi c'è una vera e propria moltiplicazione, quindi si deve incidere su una vigilanza, su programmi, perché gli italiani purtroppo, lo dobbiamo dire, sono ai primi posti del turismo sessuale, dello sfruttamento di bambini che vanno dai 5 fino ai 12, ai 13, ai 14 anni, 5 anni, quindi è una cosa orrenda. Anche le agenzie di viaggio, sia quelle che sono nei negozi, nei locali commerciali, sia quelle in rete, organizzano viaggi all inclusive, anche con le prestazioni. Senta, a proposito di questo, lei ha proposto qualche giorno fa, ho visto, di far sì che proprio le agenzie di viaggio effettuino o segnalino quantomeno, no? O effettuino dei controlli particolari proprio sulle persone che da single si dirigano verso questi paesi. Ha intenzione di sollevarla anche dal punto di vista, come dire, di un'ipotesi di legge? L'ho inserito nella mozione. Ci sono delle persone che devono essere purtroppo considerate delle sorvegliate speciali, dei sospettati, perché hanno un'età compresa tra i 25 e i 45 anni, che si recano in località a rischio. Parliamo del Brasile, Sudafrica, Thailandia, anche altre zone che sono molto note a tutti quelli che si occupano di contrasto alla violenza sui minori internazionale. Quindi quando tu vai in un'agenzia di viaggio e chiedi dei viaggi con delle allusioni più o meno esplicite, deve assolutamente partire la segnalazione. E secondo lei è una cosa fattibile, ha intenzione di inserirla in una proposta di legge o... Ma questo dipende, io credo, da un programma complessivo che il governo, ma anche con il contributo del Parlamento, deve fare per la lotta alla violenza a questo punto, che è internazionale, perché anche attraverso internet non ci sono più barriere. Ci sono tante convenzioni ma pochi atti di legge. Perché non si fanno? Ma o perché i bambini non votano, o perché ci sono situazioni e uno dice di fronte a questo non riusciamo a combattere, invece si deve combattere tutti insieme. Il prossimo appuntamento è questo mondiale del Brasile, ecco, io mi auguro che l'Italia possa vincere non solo, diciamo, come squadra di calcio, ma per la riduzione totale di questo mercimonio su questi poveri corpi dei bambini. Un'ultima domanda le voglio fare, perché poi tra poco parleremo anche con Luigi Colombo, che è uno psicologo, collaboratore del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione di Milano e si occupa anche appunto di curare i pedofili. Da questo punto di vista lei ha presentato anche una proposta per la castrazione chimica? Ma quella la presentai, per castrazione chimica è un termine violento per dire terapia farmacologica, che è inserito anche in molte convenzioni in molti paesi europei. Io credo che, non lo dico io ma lo dicono purtroppo i fatti, chi commette questo reato lo fa più volte, è seriale, non lo fa una volta e poi non lo fa più. Ecco, bisogna dire che quando si fa, spesso la galera non serve, ma servono altri strumenti per annullare la libido, che è poi quella spinta sessuale che porta questi mostri, sono mostri, no? Perché chi va con un bambino di 5 anni, non so altro come definirlo, per privare questa persona della libido. Io, guardi, una domanda gliela devo fare perché stanno arrivando, come potrà immaginare naturalmente, molti messaggi sia su Twitter sia su Facebook, eccetera, eccetera, che ci dicono, come potrà immaginare, frasi tipo: informa la Mussolini che il suo capo è sotto processo per prostituzione minorile. Guarda, io glielo dico. Io glielo dico perché. Me lo può dire, io rispondo volentieri, che penso che di fronte a persone che vanno in un'agenzia di viaggio, addirittura siti specializzati in rete, vanno con bambini di 5 anni, mi fanno questi paragoni, sono paragoni viziati da un pregiudizio, quindi io non rispondo a questo, ma vorrei dire: fate tutti qualcosa, perché il mostro può essere nelle vostre famiglie. Grazie, grazie Alessandra Mussolini, grazie e buona giornata. E buona giornata. Luigi Colombo, come si diceva, psicologo, collaboratore del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione di Milano. Vi ricordo, no, che è caduto, mi dicono. Allora, ritorniamo dunque da Marco Scarpati, presidente di ECPAT Italia. Ci tracci un identikit, perché da quello che avete raccontato voi, insomma, potrebbe essere una persona che magari conosciamo e che non ha, insomma, che non abbiamo la minima idea che abbia questa, come dire, queste tendenze, ecco, mettiamola così. Noi facciamo differenti valutazioni sulla differente tipologia di cliente, perché non c'è un cliente unico. Nel turismo sessuale, che è un termine che noi non amiamo, noi lo chiamiamo traveling child sex offender, cioè l'abusatore viaggiante, è una persona che in qualsiasi occasione di viaggio lontano da casa, quindi può avere una motivazione per allontanarsi, oppure può autodeterminarsela per andare per ferie, per vacanze o per riposo, che allontanandosi da casa si prende la possibilità di avere un rapporto sessuale con un minorenne o una minorenne. Questa persona è, dai dati delle nostre ricerche, una persona mediamente giovane, anzi giovane, è una persona che va dai 25 ai 35 anni, quindi quella è la parte più consistente del campione, quindi persone decisamente molto giovani, di media cultura, che ha una possibilità di spendere abbastanza soldi e li spende volentieri, e che ha questa possibilità di girare alcune volte l'anno, non continuamente, però alcune volte l'anno lo fa, e lo fa come attività di lavoro, come dicevo prima, oppure per attività personali, hobbistiche o di rilassamento, o di riposo, di vacanza. Molti sono le persone che si allontanano da casa e non avrebbero mai questo comportamento se fossero nei prati di casa. Mi spiego ancora meglio. Si tratta di persone che a casa loro hanno una normalissima condotta sessuale, etero-omosessuale, quella che hanno quindi rapporti sessuali con adulti, coetanei. Il problema è che quando si allontanano da casa, lasciano a casa anche la propria coscienza e la propria moralità, e una volta o più volte decidono di dedicarsi a questa follia. Prima di andare da Luigi Colombo, abbiamo recuperato la linea, voglio sentire Matteo dalla provincia di Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo portare due casi che mi sono successi. Prego. Ero a Pattaya in Thailandia, arrivo col motorino, perché lì si affittano i motorini, e invece di parcheggiarlo qui lo parcheggio là, e c'erano due ragazze, avranno avuto al massimo 20 anni, con una bambina, avrà avuto 6-7 anni, e penso fossero i genitori, e me la vendevano, cioè con $1,200 potevo comprarla, e sono rimasto scioccato, cioè la povertà. In un altro caso ero a Rio de Janeiro in Brasile, fuori da una discoteca, e mi sento tirare la maglietta, e c'erano due bambini, avranno avuto la bambina 9 anni e il fratellino 6 o 7, e volevano che comperassi delle caramelle a mezzanotte. E capisce che volendo avrei potuto, però penso che purtroppo sia anche la povertà, e di conseguenza sono disposti a qualsiasi cosa, purtroppo. Grazie, grazie Matteo per queste per questa testimonianza. Allora ritorniamo dunque da Luigi Colombo, diciamo psicologo, collaboratore del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione di Milano, lavora tra l'altro col carcere di Bollate, se non sbaglio. Colombo, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Quello che vorrei capire da lei, visto che lei ha anche in cura dei pedofili, se le sono capitati anche casi diciamo un po' relativi proprio al turismo sessuale, al di là di quello che può avvenire in Italia, insomma. Sì, sì, sì, certo, se per pedofilia si intende una tendenza ad avere persone sessualmente immature come oggetto di una tendenza sessuale, e questa tendenza è una preferenza del soggetto, quindi è una preferenza stabile del soggetto, per questo si deve intendere per pedofilia. Senza dubbio il pedofilo di questo tipo, che ha una stabile preferenza per i bambini, che quindi, per ricollegarmi a quello che diceva il telespettatore poco fa, è una persona che di fronte a una proposta che un adulto normalmente considererebbe scioccante o angosciante o fonte di sofferenza, perché un bambino in genere innesca sentimenti di tenerezza, una persona che ha invece una preferenza sessuale di questo tipo vive il bambino come una preda, come un oggetto sessuale in quanto tale, intrinseco. Quindi di conseguenza sono persone, chi ha una preferenza sessuale di questo tipo, lungo la propria vita commette diverse azioni criminose, alcune di queste vanno a segno, diciamo, altre rimangono tentate a causa delle circostanze che si frappongono, e quindi di conseguenza sono persone costantemente si pongono costantemente o fanno in modo di porsi in condizioni di poter agire la loro tendenza. Il reato sessuale è soprattutto di questa natura, è definito un reato di occasione, vuol dire che sempre accanto ad una tendenza la persona si mette nelle condizioni di realizzarla, quindi ricerca il contesto idoneo, un contesto in cui può avvicinare senza problemi un bambino e così via. Diverso poi è tutta un'altra tipologia di reati sessuali, dove c'è una persona che non si può dire che abbia una preferenza sessuale spiccata. Cioè da quello che ci raccontava Scarpati, Colombo, e poi magari da questo ricominciamo subito dopo la pausa, qua esiste una sorta di dissociazione, per cui determinati freni inibitori che ci sono quando queste persone si trovano in Italia si allentano completamente, si perdono completamente quando si trovano all'estero. Solo un sì o un no e poi approfondiamo subito dopo la pausa. Sì. Sì, sì, questo si può dire, poi diciamo meglio in che modo. Sì. Diciamo meglio in che modo. 9 in punto. Un sacco di uomini, ma ti dico un sacco, mi chiedono solo una cosa: trovare per loro delle bambine vergini. Ormai è una fissazione. Ma io gli dico che se vogliono queste cose, per loro c'è solo un posto dove... E ancora, era ancora dall'inchiesta appunto di Silvestro Montanari di Rai 3, realizzata in Cambogia. Allora, Colombo, possiamo parlare di una sorta di dissociazione da parte di queste persone? Io ritengo che si possa dire che queste persone, che quando vanno in un altrove, diciamo, e rompono i freni inibitori e possono eccitarsi, diciamo, con un minore di un'età così precoce, io penso che la loro normalità è un'apparente normalità. Io non sarei così convinto che è un'effettiva normalità. Intendo dire questo, intendo dire che spesso in queste persone noi notiamo che nella loro vita non hanno commesso magari sempre reati, ma si sono messi in situazioni molto simili, che magari sono persone che hanno sposato, un caso per esempio in mente, una partner molto molto molto più giovane, quasi in età prossima, diciamo, di essere scelta prossima in cui il matrimonio non era possibile, è un caso che ho in mente, oppure un altro caso che ho in mente di una persona che pur in una vita apparentemente normale, in realtà a casa propria aveva condotte che erano anche per la moglie e per i parenti anomale, e anomale rispetto ai figli, anomale rispetto alla moglie. E adesso dovrei dettagliare meglio. Quello che voglio dire è questo, che questa normalità in cui sono inseriti a volte i pedofili è una normalità, diciamo la generalizzazione difficile, ma una normalità apparente, è già una normalità dissociata, ecco, se per così dire, già quella che vivono tutti i giorni, dove c'è un elemento, un filosofo che però si può riconoscere se viene analizzata la storia di ognuno. Quindi non è la persona normale, diciamo tra virgolette normale, che ha una partner con cui è soddisfatto, che la ama, da cui è amato, ha un rapporto con i figli, cioè c'è già in nuce di preoccupazione, di amore, di accudimento, e poi dopo va là e prende un bambino e con quel bambino si eccita, perché la questione del relato sessuale è che una persona deve, in un contesto in cui, in una situazione in cui normalmente uno, come dicevamo prima, si angoscia, che la presenza sessuale di un bambino piccolo è angosciante, però una persona adulta è insopportabile in quanto tale, per queste persone si eccitano e hanno tutta una serie di reazioni profonde, intime, che non possono essere certo, che sono legate alla sessualità. Certo. E ora questa dissociazione in realtà la loro normalità è già strutturata intorno a questo, a questo modo di eccitarsi, soltanto che non è così visibile. Dovrei entrare nelle varie storie per dettagliare come ognuno si è aggiustato nella propria vita rispetto a questa preferenza che ha dentro di sé. Allora, Colombo, io intanto... È chiaro, io intanto la interrompo, poi voglio tornare a Marco Scarpati per capire come ci si muove dal lato del contrasto. Nel frattempo, saluto, non l'abbiamo chiamato noi, ma ci ha chiamato lui, Salvo Mandarà, in realtà tutti lo conoscete perché ha seguito il tour di Beppe Grillo in giro per l'Italia facendo le riprese, diciamo era, possiamo dire, il cameraman ufficiale, in realtà anche un progetto che si chiama Parla con gli alberi, non so se proprio lui o qualcun altro, che è un film che si occupa esattamente di prostituzione minorile in Cambogia. Buongiorno Mandarà. Buongiorno. Grillo, lo sa che lei ascolta la radio di proprietà di Confindustria? Guardi, io odio ho chiamato proprio perché volevo complimentarmi. No, sto scherzando, però prego. Allora, ci racconti un po', perché lei è stato in Cambogia, quindi... No. Io non sono stato in Cambogia, ma a dicembre del 2012 ho avuto la fortuna di conoscere Ilaria Borrelli e Guido Freddi, che sono gli autori del film Talking to the Trees, Parla con gli alberi, di cui Scarpati sa tutto perché l'hanno fatto proprio in collaborazione con Expat, anzi nella serie di trasmissioni in web che abbiamo fatto con Ilaria e Guido proprio dal 25 maggio al 2 giugno, avevo anche la speranza di conoscere Scarpati, purtroppo non è stato possibile, ma ho parlato con Jasmine, che è una degli attivisti di questa associazione, che approfitto per ringraziare. Quindi quando oggi apro la radio e sento lei che parla di questo argomento, dico, oh che bello, finalmente una trasmissione che se ne occupa, perché questo film, che Marco Scarpati conosce benissimo, ha vinto dei premi negli Stati Uniti, ha ricevuto diverse nomination in altri festival in tutta Europa. In Italia non ne parla nessuno. Ne ho parlato solo io nel mio piccolo, abbiamo fatto 5 trasmissioni in web e 5 serate live proprio con gli autori, con Ilaria Borrelli e Guido Freddi in 5 città, Torino, Genova, Milano e Abbiategrasso, e Roma. E dove appunto abbiamo avuto un pubblico limitato, perché noi non abbiamo grandi canali di comunicazione, quindi le sale non erano mai pienissime, ma tutte quelle poche persone che c'erano erano entusiaste del modo con cui Guido e Ilaria hanno trattato questo argomento. Ma veramente chiederei a Marco, visto che sono sicuro lui conosce il film e Ilaria e Guido, magari di approfondire. Volevo veramente complimentarvi con voi. Grazie mille. A questo punto le dico, convinca Grillo a farci una campagna contro il turismo sessuale, insomma, no? Proviamoci. Guardi, io vorrei... Grillo conosce bene questo film. Credo lo abbia già visto e comunque mi ha promesso che... Non mi ricordo se l'ha visto. Comunque, insomma, gliene ho già parlato e lo conosce. Però Questo è un tema talmente importante, preferirei non mischiare le due cose. Sì, no, no, no, lo capisco, ma guardi, glielo dico semplicemente proprio perché è un tema importante, insomma, mi sembra rilevante, insomma, che una forza politica di quelle dimensioni se ne occupi. Comunque, grazie, grazie anche a Mandarà. Scarpati, vorrei tornare da lei sulle linee di contrasto, poi magari mi dice anche se questo film lo conosce, sulle linee di contrasto a questo fenomeno. Abbiamo sentito la Mussolini che diceva, beh, facciamo in modo che le agenzie di viaggio segnalino le persone che partono da sole per questi paesi. Lei cosa dice? Allora, sul film lo conosco, Guido e Laria sono amici di Ekpat, il film è sponsorizzato da Ekpat e sta girando per il mondo con il logo di Ekpat Italia, è un bellissimo film. Ed è fra l'altro molto dolce, a differenza di altri film del settore, non è di quei film, come potremmo dire, o oscuri o volutamente un po' ammiccanti, anzi è veramente un bellissimo film, che io, fra l'altro si può scaricare su internet e io consiglio a chiunque di vederlo, anche perché Ilaria e Guido sono stati bravissimi nel parlare in maniera anche poetica di qualche cosa che in realtà è spaventoso. Vengo alla seconda domanda. Allora, il contrasto del fenomeno si può fare su più differenti livelli. Beh, il primo è innanzitutto un contrasto di politiche. Occorre fare in modo che di questo tema si parli e che di questo tema si abbia coscienza. La criminalità organizzata ne ha una forte coscienza, essendo che la prostituzione minorile è una delle voci che sono al top della classifica di arricchimento da parte della criminalità organizzata. Quindi, se loro ci guadagnano molto, vuol dire che forse occorrerebbe una maggior presa di coscienza. Mi scusi Scarpati, e non solo in quei paesi ma anche in Italia, perché fin qui abbiamo parlato di turismo sessuale, ma esiste anche una tratta dei minori italiana. Assolutamente sì, non solo, ma ovunque si possono scaricare materiali fatti con i bambini, cioè foto, filmati o veri e propri film di pedopornografia, e questi sono una follia che arricchisce pesantemente il mercato della criminalità organizzata che si è specializzato in prostituzione minorile. L'altra possibilità è quella di fare in modo che le polizie, sempre più polizie, sempre più magistrati collaborino in questo senso. Era un'idea di Falcone, quella di che per contrastare la criminalità organizzata internazionale occorresse far collaborare le polizie e le magistrature in maniera maggiore. Le faccio un semplice esempio: se un italiano vuole avere rapporti sessuali con un bambino in Cambogia, e ci è capitato più volte in Cambogia, in Thailandia o in altri paesi, il problema corposo è che le prove vanno raccolte in quel paese. La legge italiana prevede che una volta tornato in Italia egli possa essere processato e condannato in Italia, ma se non possiamo raccogliere bene le prove nel paese in cui lui ha fatto il reato, in Italia non si riuscirà mai a processare, certo. Per cui occorre un maggior coinvolgimento delle magistrature, delle forze di polizia, di modo che cooperino, collaborino e creino uno spazio giudiziario internazionale che colpisca questa tipologia di reati. L'altra ultima questione, ma fra le tante, è appunto fare in modo che le polizie si formino con indagini che sono di collaborazione. In questo momento, per esempio, prima la onorevole Mussolini parlava dei prossimi mondiali in Brasile. Beh, le forze di polizia che stanno lavorando su questo tema, cioè la prostituzione minorile che ci sarà, perché purtroppo quando ci sono grossi eventi sportivi c'è un aumento pesante della prostituzione e della prostituzione minorile. Beh, le forze di polizia che contrasteranno questo fenomeno e che stanno già elaborando le politiche di contrasto del traffico di minori, perché tra qualche mese cominceranno a essere trafficati i bambini per essere portati nei luoghi dove si svolgeranno le partite di calcio, beh, si stanno formando grazie anche alla formazione che è stata fatta per gli europei di calcio in Polonia e in Ucraina, per i precedenti mondiali in Sudafrica, per le Olimpiadi di Londra, perché anche in queste realtà si è assistito, stiamo parlando di, non potremmo dire, città di altissima cultura, sì. Londra, Varsavia, ciò non toglie che anche in quelle parti, in quei luoghi, come in Germania precedentemente, vi sono stati ampi fenomeni di sfruttamento e di prostituzione minorile, per cui occorre lavorare molto sulla prevenzione, perché come lei potrebbe Brevemente Scarpati, l'idea che lanciava Mussolini, cioè un controllo a monte tramite le agenzie di viaggio, le sembra un'ipotesi interessante? Guardi, le agenzie di viaggio già collaborano, perché esiste il codice di condotta delle agenzie di viaggio e dei tour operator che prevedono il fatto che loro segnalino immediatamente qualcosa di anomalo che vedono o nei loro clienti o nei luoghi in cui loro organizzano soggiorni. Per cui questa cosa esiste già ed è il codice di condotta che è partito dall'Italia e adesso è presente in quasi tutto il mondo. Quindi è una cosa importante che già esiste. Tra l'altro l'Organizzazione Mondiale del Turismo, che ha sede in Spagna, ha un intero settore che si occupa specificamente della repressione e della prevenzione della prostituzione minorile nel turismo. Nel turismo. Per cui lavorare con agenti di viaggio è uno dei nostri grossi impegni. Io fra l'altro ho mia moglie che è un agente di viaggio, quindi sappiamo quanto sentiamo anche in casa questo problema. Ed è vero che una maggior collaborazione con chi organizza e chi lavora nel settore turistico a noi sta portando grossi risultati, perché per esempio siamo riusciti a reprimere alcuni traffici e alcuni clienti grazie alle segnalazioni che sono arrivate. 9 in punto. Mi chiedono se ho una sorellina. Io gli dico che non ho sorelle. E loro mi chiedono se conosco qualche bambino. Sì, alcuni clienti vogliono bambini, bambine, anche di 7 anni o poco più grandi. È così. Dai 7 anni in su? Sì. Ragazzine e bambini? Sì, certo. Ora ce ne sono tantissimi. Soprattutto bambine. Tantissime. Che fanno sesso? Sì, ce ne sono tantissime. Ancora dalla splendida inchiesta di Silvestro Montanari di Rai 3... realizzata proprio in Cambogia sul turismo sessuale. Mi scrivete sulla bacheca Facebook se possiamo evitare di passare la linea nel caso telefoni Salvo Mandarà. Non vedo perché, tra l'altro, è intervenuto esattamente sul tema e non ha voluto nemmeno sforare di una virgola sulla politica, nonostante un mio tentativo, per quanto sempre relativo al tema, e quindi non vedo perché un ascoltatore come un altro. Simona dalla provincia di Prato, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare una testimonianza. Che il bar dove, che frequento io, ci sono dei signori tra i 60 e i 70 anni che sono, diciamo, non fanno segreto di questi viaggi in Thailandia e addirittura fanno trofeo di queste foto di ragazzine che loro si vantano di tenere in camera tutto il giorno e fare i loro comodi e poi andare in giro, fare il bagno e tenerle in camera come... E parlano anche dell'età di queste ragazzine? Sì, diciamo che sono ragazzine, ragazzine giovani e portano queste foto al bar, le fanno vedere a tutti. Non lo so, se da denuncia, non so cosa fare. Che cosa fare? Scarpati, che cosa fare? In questo caso la cosa migliore è di denunciare alla polizia e ai carabinieri, oppure se non se la sente di telefonare a ECPAT o di scrivere via mail a ECPAT, che ci provvederemo noi a queste segnalazioni. Non bisogna creare di ogni erba un fascio, però è un dato di fatto che gli uomini, fra le tante attività che fanno, amano da matti parlare di queste follie e grazie al chiacchiericcio che si è sentito, a volte siamo riusciti a fare segnalazioni anche importanti alle forze di polizia. Fabrizio dalla provincia di Bologna, buongiorno. No. Giuseppe dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno, io sono d'accordo su tutto quello che è stato detto finora per quanto riguarda la prevenzione di questa fenomenologia criminale, però dobbiamo parlare anche un pochino di repressione, perché altrimenti non ci siamo. A me ribolle il cervello dopo che ho sentito il titolo di questa trasmissione. Bisogna che queste persone, una volta scoperte, se sono criminali seriali, come lo sono i killer di professione, come lo sono gli omicidi seriali, vanno eliminati dalla società. Non ci possiamo immaginare come dice la Costituzione, una rieducazione. Non c'è rieducazione, qui c'è eliminazione. Io sono contro la pena di morte per quanto riguarda Caino, che ne ha ammazzato uno solo, ma chi è seriale va eliminato dalla società, abbiate pazienza, non c'è una soluzione diversa. Grazie. C'è solo la capsula di cianuro. Grazie Giuseppe. Luigi Colombo, e questo apre l'immenso capitolo, peccato sì, che abbiamo solamente 2 minuti e mezzo, su i pedofili si possono curare oppure no. I pedofili si possono curare, secondo lei? Certo, quello che dicevo un po' prima, dopo questo intervento può essere ripreso come proprio essenzialmente, cioè esistono pedofili, come dicevamo prima, che hanno una preferenza sessuale, si può verificare questa cosa. Queste persone, la cura in cosa consiste? La cura deve essere sempre, se vogliamo farla, accompagnata da misure di sicurezza, quindi da misure anche post-detentive che consentono su un lungo periodo a queste persone di essere seguite anche forzosamente, quindi che consentono a queste persone di ricevere un controllo dalla società, un controllo benevolo, un controllo non violento, ma un controllo dalla società, perché sono persone che hanno un approccio predatorio nella sessualità e nello stesso tempo però un approccio occasionale, che quindi si può rivelare dopo un po' di tempo, e quindi vanno tenute un po' sotto controllo. Lei dice si possono curare e nel frattempo tenerle sotto controllo. Sotto controllo con misure di prevenzione, cioè il sistema ci sarebbe. Noi siamo quasi in chiusura, magari su questi temi ci torneremo, insomma, perché sono temi appunto dei quali bisogna parlare. Ci arriva anche qualche SMS. Dice, ma saranno 30 anni almeno che si sanno queste cose, ma di cosa ci scandalizziamo? Scusi, non ne dovremmo parlare. Mentre invece ci scrive Alex, avrei sulle 100-150 persone da denunciare che frequentano queste mete turistiche da 10-15 anni. Bene, Alex, lo faccia. Un ringraziamento ad Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza. Un grazie a tutti voi per l'ascolto, a Marco Scarpati e a Luigi Colombo che ci hanno accompagnato in questa puntata. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 21 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.